Mio, urge l'opera, lo sai. Vado, vado. E quella donna bionda lassù, la Maddalena, ti piace? E quella bella, prezioso elogio. Ce n'è tanti pel mondo! Aspetta! Aspetta! E la tante! Cara! Vedi, tono, tonnami, tonnami! Caso! E mossi, e perché scritto! Oh, 感受音乐与歌声的交响，聆听舞蹈与旋律的对话，请进北京音乐广播古典音乐频道有线调频98.6兆赫歌舞剧场，每天10点、22点播出。 Once upon。 欢迎继续收听歌舞剧场，在接下来的节目中，请欣赏歌剧中的著名选曲，曲目有《女人善变》《爱情天使》《我亲爱的爸爸》《今夜无人入睡》《晴朗的一天》《冰凉的小手》《多么美丽的姑娘》，由帕瓦罗蒂、弗雷尼、米尔奈斯、萨瑟兰、派巴尔迪、霍华德等演唱。

Oh! aspetti, signorina, le dirò con due parole. Chi sei? Chi sei? Che faccio vivo? Chi sono? Sono un poeta. Che cosa faccio? Scrivo e come vivo? Vivo. Il cuore per la mia lieta canto da gran per sogni e per chimere e per castelli. Thank you. darti le dolci grezze del patrio suo. Rega la seto sulle crimposa.